raramente hanno utilizzato la sezione fiati, essendo una Southern Rock Band, andavano giù duro e dritto con 2/3 chitarre, però in questo pezzo, chissà come mai, i Lennon Skinner hanno voluto inserire proprio una sezione fiati. Era What's Your Name su Rock FM, ora è tempo di Carlos Santana, che sarà il 30 di giugno, unica data italiana, è un lunedì se non sbaglio, in quel di Verona, all'Arena, quindi una bellissima location per poterlo vedere dal vivo con i suoi successi del passato come questa O Io Como Va e quelli magari più recenti. Inconfondibile tocco e riff di chitarra di Carlos Santana alle prese con la sua O Io Como Va, se ne va, parafrasando il titolo, questo motivo per cedere il passo al nostro prossimo tris, Bryan Adams, Rainbow e Deep Purple. Touching you, how was I? My name is Roger Glover, my band is Deep Purple, and your radio station is Rock FM. Perfect Strangers, la voce naturalmente quella di Gillan, la formazione quella di Deep Purple, in chiusura di questo altro Tristassi. E invece il prossimo motivo ci porta ad un gruppo inglese di buon sound, Boogie Rock Blues. Boogie Rock più Rock and Roll sono secondo me gli Status Quo, questi sono più Boogie Rock Blues e si chiamano Foghat. Il gruppo forse non esiste più perché purtroppo un paio di membri della band sono scomparsi. Oggi, 6 maggio del 1942, nasceva Colin Earl, componente appunto di questa band chiamata Foghat. Il compleanno del giorno. Componente dei Foghat, oggi riascoltati con Driving Wheel. Colin nasceva il 6 maggio del 1942. Altri compleanni li ritroveremo nelle prossime nostre due ore, ma intanto a livello musicale in arrivo Emerson, Lake and Palmer.